La rosa purpurea di Franco D'Assisti. E un saluto da Franco D'Assisti, un buon weekend a tutti, buon weekend al cinema per tutti, qui la Rosa Purpurea, il nostro appuntamento settimanale con il cinema. Settimana davvero oceanica per quanto riguarda le uscite, ma sarà così almeno per tutto il prossimo mese, con una media di almeno, spesso di più, 10 nuovi film per settimana. Questa settimana sono addirittura 13, quindi impossibile di fatto raccapezzarsi dentro i tamburini delle sale cinematografiche. Noi come sempre facciamo delle scelte, ci sono film di cui non riusciremo a parlare, evidentemente secondo il nostro non modesto avviso non ne valeva forse la pena. Allora partiamo da una commedia francese che si intitola Barbecue, un nome che già basta da solo a evocare grigliate, estate. Anzi, in questo fine settimana nei pressi di Milano c'è il campionato italiano di griller, di gente che fa le grigliate, e ci sono i giudici che sono americani, sono tostissimi, quindi attenzione, attenzione. Beh, allora, Barbecue dalla Francia, la regia di Eric Lavren, l'attore protagonista, soprattutto Lambert Wilson. Sentiamo la clip. Che fai tu qui? È quello che vorrei sapere da te. Io la prima settimana e tu la seconda invece settimana. Invece no, io non me ne vado. È una ragione molto semplice. Sono le mie vacanze e i miei amici. Questo è grosso, sono anche i miei amici. E Antoine? Antoine? Prima di incontrarci al pattinaggio, l'avevi mai visto Antoine? Ah no, qui caschi molto molto male, perché con Antoine c'ero già uscita prima di conoscere... Ma come, sei uscita con Antoine? Eh? No? E allora, un cinquantenne appena compiuti decide che è arrivato il momento di cambiare, di uscire, scappare dalle diete ipocaloriche, dalla forma a tutti i costi, dall'apparenza, per godersele un po' con delle belle bistecche e gli amici di una volta. Un po' il contrario di quello che accade a tanti cinquantenni della nostra generazione. Boris Sollazzo, che non ha 50 anni, ma come dire, di diete ipocaloriche se ne intende, è in collegamento con noi. Ciao Boris! Salve Franco, ti ringrazio di questa presentazione. Purtroppo hai ragione. Purtroppo condividiamo questo tema, quindi come dire, siamo tutti e due perennemente alle prese con noi stessi. Vorremmo essere un po' come Lambert Wilson di Barbecue, ma nel frattempo non siamo mai stati come Lambert Wilson di adesso, quindi dobbiamo anche cercare un po' di regolarci. No, scherzi a parte, Boris, commedia francese, insomma, come dire, è diventato ormai un marchio da anni a questa parte, una vera inondazione anche in Italia di commedie. A che livello lo siamo stavolta? Ma un livello medio, come spesso accade con la commedia francese. La commedia francese ha il nostro stesso vizio, c'è qualcosa che ha successo, c'è una modalità che ha successo e si replica. Qua siamo sull'onda di Piccole bugie tra amici, siamo sull'onda della linea d'ombra che passa un adulto che comincia a sentirsi passare nella seconda parte della vita. C'è qualcosa che gli succede, come spesso accade, insomma anche di traumatico, che lo aiuta in questo passaggio. Sono troppo bravi forse gli attori, tra cui Lambert Wilson, che peraltro in questa settimana sta anche in vino dentro, sono troppo bravi gli attori forse per valorizzare una scrittura che è buona, è accademica, però non è straordinaria, cioè non c'è mai uno spunto, e quindi tutto, come spesso accade nella commedia francese, si gioca sui confronti diretti. Insomma, volendo fare una metafora sportiva, qui non vincono tanto gli schemi quanto le individualità. Alla fine si arriva a un risultato abbastanza soddisfacente, perché appunto, come abbiamo detto, gli interpreti sono bravi, però si fa fatica già a ricordare di che cosa si parlava dopo aver cenato, magari dopo essere usciti in sala, e questo è l'unico difetto, che però è un difetto secondo me del genere, non solo di un film che comunque è onestissimo e fa passare il tempo che dura in maniera gradevole. E parliamo adesso di un altro film, Francis Isle, titolo, dalla Francia passiamo agli Stati Uniti, dai cinquantenni passiamo ai 30-35 anni, ma al centro, anzi dagli uomini passiamo alle donne, ma al centro c'è sempre un po' il disagio, la fatica di trovare il proprio baricentro all'interno della vita. Sentiamo. Raccontami la nostra storia. Di nuovo. Noi due conquisteremo il mondo. Tu diventerai un adorabile boss dell'editoria. E tu una famosa ballerina moderna. Tu cosa fai? È difficile da spiegare. Perché quello che fai è complicato. Ah, perché non lo faccio in realtà. La storia di una generazione che non fa quello che vorrebbe fare, che desidererebbe fare. Boris, c'è più di un legame che unisce Barbecue con questo film? Beh, altro che, perché cambia forse il fatto che sono 15 anni indietro anagraficamente, ma l'inadeguatezza del vivere, l'incapacità di stare in una comunità che ti rifiuta e ti accetta, che tu senti scomoda e che a volte ti mette a tuo agio, è esattamente la stessa. E se vogliamo, anche cinematograficamente siamo dalle stesse parti, non tanto per quanto riguarda lo stile, quanto per quanto riguarda la reiterazione di modelli vincenti, nel senso che qui siamo dalle parti del Sundance, c'è cioè un bianco e nero molto furbetto, c'è questa etica ed estetica che l'indie americano a cui l'indie americano ci ha abituato, e ci si fonda tutto su una bella faccia molto particolare come quella di Greta Gerwig, che sicuramente è brava, ma tutto quello che vediamo proprio come in Barbecue è già visto, e quella incapacità di vivere, quell'incapacità di confrontarsi, che diventa quasi un inno a una generazione che sembra essere contenta di essere inetta, alla fine risulta irritante. Barbecue almeno non ha queste pretese, Francis ha sì, e forse per questo è più faticoso da vedere, è più faticoso anche da accettare, perché insomma sono 15 anni che vediamo sempre lo stesso film e cominciamo un po' a stufarci. Andiamo invece a un impianto decisamente classico, quello di Le due vie del destino, The Railway Man, film che nel cast annovera due attori di grande popolarità, magari non, soprattutto per quanto riguarda l'attrice, esattamente al centro della propria carriera, sulla cresta dell'onda, ma insomma sempre nomi che smuovono le platee, quelli di Colin Firth e di Nicole Kidman. Sentiamo la clip. Notiziario della BBC. Oggi a Singapore le forze alleate si sono arrese al Giappone. Per loro non eravamo veri uomini, altrimenti saremmo morti per la vergogna. Siete uomini senza onore. Siete qui per aiutarci a costruire una ferrovia. Se lo farete, per voi andrà tutto bene. Ma noi dicemmo no. Vivremo per vendicarci. Allora, la storia di una vendetta, diciamo al contrario rispetto a quello a cui ci ha abituato il cinema, cioè raccontarci di uomini valorosi del sollevante che erano pronti a tutto, pronti a sacrificarsi e immolarsi in guerra. Qui invece la storia è quella appunto di un soldato che viene catturato durante l'invasione di Singapore dalle truppe giapponesi e poi avrà il suo modo, anni dopo, di poter provare a vendicarsi. Dicevo, Boris, impianto classico, due attori che sono due certezze, anche se Nicole Kidman negli ultimi tempi un po' aveva perso quota. Qui come se la cava? Ma qui se la cava discretamente. Anche qui, non voglio ripetermi, appunto, l'impianto classico è qualcosa che abbiamo già stravisto e che, per fare un esempio, sentivamo molto più potentemente in Furio di Nagisa Oshima o in tanti altri film, diciamo questi film di guerra al contrario, queste parabole molto edificanti ed educative sull'inutilità dei conflitti bellici. Devo dire, la Kidman è meno plastificata in tutti i sensi rispetto al passato, c'è comunque uno sforzo maggiore di recitare, si riconosce di più la Kidman pre-Kubrick e durante Kubrick, cioè quando ancora si sentiva un'attrice e non un modello, un simbolo. Per il resto il film si poggia su una scrittura che ha da una parte nulla di originale e nulla di particolarmente sorprendente, dall'altro però una solidità molto forte che, unita al cast straordinario che ha Oltre il destino, in effetti si fa guardare con piacere. E poi devo dire che anche la storia, che viaggia su due binari paralleli, visto che parliamo della ferrovia tra Bangkok e Rangoon, è anche utile insomma usare questa metafora, ha una sua piacevolezza, non pretende più di quello che promette dopo i primi 10 minuti. Anche qui non rimarrete stupiti, però francamente c'è del materiale talmente buono alla base, devo dire anche in regia, che non si esce insoddisfatti. Ricordiamo anche Stellan Skarsgård, giustamente in questo cast importante, sempre un attore che negli ultimi tempi, come dire, fa il suo. Io voglio ricordare che ai nostri amici della Rosa Purpurea che ci stanno ascoltando regaliamo una coppia di biglietti, anzi 5 coppie di biglietti, ai primi 5 ascoltatori che invieranno un SMS al numero 349-238-6666 da questo momento. Vi ricordo, 5 coppie di biglietti per Le due vie del destino, i primi 5 ascoltatori che ci manderanno un SMS al 349-238-6666. Giochiamo insieme con la prima traccia del film misterioso di oggi. Hai fatto qualcosa di divertente sabato sera? Beh, tutti i ragazzi del mio quartetto vocale sono stati uccisi, perciò... No, non direi. La Rosa Purpurea @radio24.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, vi serve per giocare con noi, per provare a indovinare di che film si tratta e provare a vincere una copia in Blu-ray di questo film. Più tardi vi daremo un'altra possibilità. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea parliamo di un altro dei film che arrivano, dei 13 film che arrivano in sala in questo fine settimana, a confermare una settimana di grande quantità, ma non di qualità proprio eccelsa, insomma qualcosa di interessante da vedere c'è, però anche Sex Tape finiti in rete tutto sommato non si scosta da questo sentiero di già visto e di già sperimentato al cinema. In questo caso una coppia un po' annoiata con figli, sposata da 10 anni, per rinvigorire il rapporto cerca e si butta nella logica del registrare filmini sexy da vedere nelle intenzioni tra le mura domestiche. Quelle mura si allargano perché anziché un semplice salvataggio parte una download, anzi un caricamento, un upload sul cloud, e c'è una battuta straordinaria, forse una delle più belle del film: nessuno sa che cos'è questo cloud, che improvvisamente portano questo film sui palmari e sui tablet di tutti gli amici. Quindi mi stai dicendo che invece di cancellare il video, la registrazione è stata inviata a tutti gli iPad che abbiamo regalato? Tecnicamente sì. Dobbiamo riprendere tutti quegli iPad all'istante. Lo stavo usando! È salito, è andato a finire nel cloud! Non c'è modo di tirarlo giù dal cloud! Nessuno sa cos'è il cloud! È un cazzo di mistero! E allora, questa è la clip. Ricordiamo Cameron Diaz, protagonista femminile, accanto a Jason Segel, ma anche Rob Lowe, guarda che si rivede in questo film. Boris, dicevamo, anche sul fronte del sex tape niente di nuovo. No, assolutamente nulla di nuovo. Sono stati fortunati che lavora Jennifer Lawrence con un'altra centinaio di star, si sono ritrovati a scoprire purtroppo che cos'è il cloud, con foto che sono andate sui PC di tutto il mondo e non solo sugli iPad degli amici, e quindi questo l'ha reso di straordinaria attualità. Però devo dire che abbiamo sentito un trailer molto ben fatto, perché tutto ciò che faceva ridere era dentro il trailer. Sex Tape è una commedia che di erotico forse ha solo il momento in cui compare Cameron Diaz, mai così scoperta, che di divertente a poco, perché è davvero dozzinale la comicità che porta avanti e che si fonda su un soggetto esile davvero quanto un tovagliolo, e questo fa sì che effettivamente, se si vuole passare una goliardica serata tra amici maschi, magari un addio al celibato, si finisce anche per ridere. Ma fuori da questo contesto, diciamo, molto particolare, è difficile che si possa trovare interessante Sex Tape, perché poteva sicuramente essere fatto meglio. Ecco, viene in mente la critica che spesso si faceva ai cinepanettoni nostrani, che potevano avere una cura maggiore nonostante i soggetti esili e la comicità dozzinale, e invece qui non c'è neanche questo. Certo è che Cameron Diaz più invecchia più è straordinaria, sia a livello fisico ma anche a livello di recitazione, perché quel poco che piace di Sex Tape sta tutto sul suo carisma. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. Gli olivi, il sole e le cicale significavano sonno, abbandono, rassegnazione, miseria. E ora qui invece gli uomini hanno costruito una cattedrale immensa di metallo e di vetro per scatenarvi dentro il mostro infuocato che si chiama acciaio. Le parole di Dino Buzzati per raccontare cosa rappresentava l'acciaio proprio in quegli anni in cui gli ulivi del litorale tarantino venivano spianati per far posto a quella che sarebbe stata poi un domani l'Ilva, cioè per far posto nel segno del progresso a qualcosa che oggi invece ci piangiamo nel senso della mancanza di progresso, della mancanza di lavoro, della mancanza di salute. Davide Ferrario in collegamento con noi, regista della Zuppa del Demonio, da questa settimana al cinema. Ciao Davide, ben ritrovato alla Rosa Purpurea. Davide Ferrario in treno, quindi insomma i rumori che sentite sono dovuti all'ondeggiare di uno di quei simboli del progresso che forse non potevano essere immaginati all'inizio del Novecento, quando il tuo film parte e racconta come appunto il sogno e il segno del progresso fossero qualcosa che tirava su di morale le persone, le faceva sentire felici. Ma abbiamo sbagliato tutto allora, secondo te? Partire dal fondo del film, che è una frase di Giorgio Bocca molto bella, in cui nel 2000 fa i conti con quello che è stato il boom economico e dice: le cose che allora ci sembravano bellissime oggi ci sembrano orrende. Dice: abbiamo sbagliato tutto. Dice: ma no, forse ci siamo lasciati illudere, ci siamo lasciati distrarre dalle luci che si accendevano. Dice: però quello è stato un periodo felice. Ecco, secondo me in tutta la zuppa del demonio corre questo doppio binario, e non a caso diabolico come ragionamento, ma insieme da una parte si vede la forza meravigliosa e distruttiva anche del progresso, questo progresso che ha sempre ragione anche quando ha torto, come diceva Marinetti in un manifesto futurista. Dopodiché, quando il progresso ha cominciato a significare comprare e acquisire cose e concentrarsi sul consumismo, dobbiamo cominciare a chiederci cos'è, in che maniera le vite dei figli sarebbero migliori di quelle dei padri. Insomma, è successo tutto troppo presto, in troppo poco tempo. Se uno fino al giorno prima ha avuto l'asino e poi improvvisamente ha una macchina sportiva, non può non aspettarsi che cominci qualche danno prima o poi. Credo che da un punto di vista culturale noi non abbiamo avuto il tempo di assimilare quello che è stata la ricchezza e così la possibilità di essere una società ricca. Davide, ti faccio un'ultima domanda proprio di sapore più cinematografico. Tu in questo caso hai lavorato, come avevi già fatto in passato, con materiali d'epoca, tra l'altro straordinari, di archivi di industriali, l'archivio di Ivrea, eccetera. Come si fa a metterci la propria mano di regista dentro, quando si lavora con materiale che è già così bello, così che verrebbe voglia di metterlo dentro tutto, no? Ecco, qual è il ruolo del regista in un film di montaggio come questo? Ma io credo che non cambia per me fare un film di finzione o un film di montaggio. Io credo che davvero il cinema sia il montaggio, punto, basta. Il montaggio è prodotto dal significato che si crea unendo un'immagine a un'altra e poi un'altra ancora. Da questo punto di vista, utilizzare immagini che tu non hai girato non cambia molto. Si tratta però di avere, diciamo così, un rapporto etico con le immagini. Da una parte rispettare la natura dell'immagine originale, non farle dire qualche cosa che non voleva dire, ma dall'altra sottolineare, in questo caso per esempio la distanza temporale già ci dice molto, vedere la stessa immagine degli anni 60 adesso ha un altro significato, e poi costruirla assieme delle altre immagini produce il significato che è il mio, ma non è un altro significato, è una stratificazione legata, credo, alla meravigliosa ambiguità del linguaggio cinematografico. Perfetto, allora grazie a Davide Ferrario, ricordiamo il film La zuppa del demonio al cinema proprio da questo fine settimana. Alla prossima Davide! Grazie. E allora siamo arrivati alla seconda traccia del film misterioso di oggi. Sono nello SHIELD per proteggere la gente. Per costruire un mondo migliore, a volte è necessario distruggere quello vecchio. E questo crea nemici. La Rosa Purpurea @radio24.it, diteci di che film si tratta, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo per provare a ricevere, se sarete i più veloci, due più veloci, due copie in Blu-ray di questo film che vi sveleremo la prossima settimana. Adesso invece sentiamo la clip del game della settimana scorsa. $26,000 per i contorni? Ma che contorni erano? Guarivano il cancro? Sì, esatto, guarivano il cancro, questo è il problema, ecco perché costavano così tanto. E allora si trattava di The Wolf of Wall Street, il film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, che è stato l'oggetto del nostro game della scorsa settimana e che è uscito in Blu-ray, comunque in un video in questo periodo. Ricordiamo i nomi dei due vincitori più veloci: sono stati Assunta Minopoli di San Giorgio a Cremano, provincia di Napoli, e Francesco Zanato di Padova. Napoli e Padova quindi per The Wolf of Wall Street. L'uscita ce la facciamo raccontare in un video dal nostro Giulio San Giorgio di Film TV. Ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, Wolf of Wall Street di Martin Scorsese, uno dei film più importanti dell'anno, un film sull'imperativo al godimento che muove il capitalismo finanziario, un'opera critica, vignettistica e grottesca, esce in Blu-ray, un Blu-ray dall'alta resa video che non soffre il mix estetico approntato da Scorsese, che nel film ha usato 35 mm digitale, alta e bassissima definizione. Nessun extra nell'edizione a disco single, singolo, mentre nella special edition a due dischi contiamo una decina tra trailer e spot TV e tre speciali per un totale di 40 minuti, a fronte invece dei 17 della versione americana. Giulio, parliamo anche di segnalazioni dalla televisione. Proprio la settimana scorsa, nelle scorse settimane, a Venezia è stato presentato il film documentario di Alex Della Iglesia su Lionel Messi. Ebbene, la televisione risponde questa settimana con Rai 5 che venerdì 19 settembre alle 21:15 manda in onda il film di Kusturica su Maradona. Sì, esattamente, mentre a Venezia è andato il Messi secondo Alex Della Iglesia, noi vi proponiamo un altro ritratto di calciatore, di un altro divino argentino, Maradona by Kusturica, su Rai 5 alle 21:15 di venerdì. La storia della straordinaria vicenda umana di Diego Armando, gigante del calcio e scellerata vittima di se stesso, un film realizzato con un eccezionale accesso diretto alle fonti, grazie anche alla partecipazione dello stesso calciatore argentino. È un documentario decisamente eccentrico, sghembo, folle alla maniera di Kusturica, sulle note pacianca di Manu Chao. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo giunti alla fine della nostra trasmissione, grazie per averci seguito, appuntamento fra 7 giorni qui su Radio 24 per parlare di cinema. Un saluto da Franco D'Assisti.